È sempre bello vedere come iniziamo l'incontro e poi cosa succede dopo il momento di lode. Deve essere per noi indicativo di quanto la lode sia potente e viverla giorno dopo giorno dopo giorno, perché nella lode noi abbiamo vittoria. Amen. Amen. Verso la tua direzione, cioè dietro, sì, verso la tua direzione è il tema di quest'anno. Pensavo, ricordavo i temi degli anni scorsi, non più ma tu, come te, verso la tua direzione, e grazie a Dio in tutti questi temi Gesù è centrale, è al centro. E in non più ma tu abbiamo quasi capito il posizionamento che dobbiamo avere nella nostra relazione con Dio, abbiamo capito un po' chi siamo. In come te, se ci pensiamo, abbiamo capito come dobbiamo essere, a cosa dobbiamo aspirare, abbiamo capito dove dobbiamo andare. E verso la tua direzione è un muoversi. Cioè, una volta che abbiamo assunto determinate consapevolezze, chi siamo, qual è il nostro obiettivo, muoviamoci. Amen? E cercavo un po', pensavo, dicevo, ma chissà qual è la direzione di Dio, verso la tua direzione. Qual è questa direzione? Allora, sicuramente proprio letteralmente è la sua e non la nostra. Cioè, possono coincidere, però comanda lui, deve comandare lui. E poi pensavo, la tua direzione, qual è quella che possiamo identificare come la direzione più di Dio possibile? La direzione dove noi centriamo meno nei nostri ragionamenti, nei nostri pensieri. Una direzione poco condizionata da tutto quello che noi possiamo pensare o provare, la direzione più di Dio possibile. E ho pensato, forse la direzione più di Dio possibile è proprio la direzione delle cose che noi non riusciamo a concepire, non penseremmo, di cui abbiamo paura, che temiamo, la direzione dell'impossibile. E oggi vorremmo parlare di questo, la direzione delle cose impossibili, delle cose che, come dicevo, un po' noi temiamo, le cose che, dalle quali un po' ci allontaniamo quando Dio ce le dice e ce le propone, però sono sicuramente le cose in cui noi abbiamo più bisogno di Dio, le cose in cui noi un po' diminuiamo e Dio sicuramente cresce. E ricordiamo, no, la storia di Ruth, abbiamo letto in queste domeniche della sua storia, di come lei, vedova, segue Naomi in una terra a lei straniera e poi per caso incontra quest'uomo buono, Boaz, che ha il diritto di riscatto sulla sua vita. Però ce n'è un altro che ha il diritto di riscatto prima di lui, però non anticipiamo nulla, se no il pastore, cioè deve finire lui. Niente spoiler. Però sì, la sua vita è un caso dopo l'altro. E chi di noi non ha mai vissuto nella propria vita dei casi che poi casi non lo sono davvero? Tanti di noi, no? Nella nostra esperienza con il Signore, tante volte qualcosa sembra un caso, ma in realtà è Dio che sta operando, è Dio che è dietro ad ogni circostanza. E Lui è sempre pronto a fare questo, lo vuole fare continuamente in noi e con noi. E noi ci dobbiamo mettere un po' di coraggio, sicuramente amore verso Dio, un po' di incoscienza, però l'ingrediente fondamentale per vivere questo è la fede. Oggi cercheremo di non definire proprio la fede, perché a volte con le definizioni sì, ci diamo una scritta, però poi non la facciamo troppo nostra. Cercheremo di tagliare a metà la fede attraverso storie di personaggi che di fede ne hanno avuta parecchia. Però dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. Ci crediamo tutti? Amen. È già un miracolo se siamo qui, vero? Perché la cosa più impossibile di tutte era proprio la nostra salvezza, e quella Dio l'ha già fatta. Quindi se partiamo dalla croce, possiamo avere già una base sicura. Vogliamo leggere, giusto per avere anche una base scritturale, in Matteo 19, 25-26, ed è scritto: i discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Gesù dice questo parlando della salvezza. Chi di noi meriterebbe la salvezza? Nessuno. È qualcosa di impossibile per chiunque. E Dio l'ha fatta. Ha già sconfitto la cosa più impossibile di tutte, la morte. E ha già vinto per noi. Siamo salvi in Lui. Amen. Abbiamo creduto e in Lui abbiamo la salvezza. E questa è la base dalla quale partire. Dio ha già compiuto la cosa più grande e più impossibile di tutte. Questo mette un po' di serenità. Se ha fatto questo, il resto, facile. Facile per Lui. E per comprendere un po' la direzione dell'impossibile, ci faremo aiutare da dei maestri, da quattro maestri, che ci aiuteranno a comprendere le dimensioni di questa direzione. Le dimensioni del quando, del dove, del perché e del come. Affronteremo queste quattro dimensioni con quattro maestri. E partiamo con la prima, il quando. Per il quando ho scelto Elia. Elia, è bellissimo iniziare con lui, perché la Bibbia lo presenta in 1 Re 17:1 così. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La Bibbia presenta Elia in maniera molto semplice. Non dice che è un grande uomo, non dice che è un uomo forte, coraggioso, valoroso. Dice solo da dove viene e che serve il Signore. Fine. Fine. Poi scopriremo, andando a leggere, e io vi invito davvero a leggere tutte le storie degli uomini che affronteremo, non abbiamo il tempo di farlo, scopriremo che è un profeta, ma ce lo presenta solo così. Da dove viene e che serve il Signore. Questo basta per compiere insieme a Dio l'impossibile. Nella nostra normalità, nella nostra umanità, Dio è pronto a incontrarci per compiere cose meravigliose con le nostre vite. Non serve essere uomini forti, valorosi, coraggiosi, impeccabili. Nessuno lo è. Nessuno lo è. Elia per primo. E Elia ha vissuto tanti momenti altissimi con Dio. Fuoco, fiamme dal cielo, grazie alla sua intimità con Dio ha potuto dire ad Acab: non pioverà per 3 anni, non ha piovuto, cose meravigliose, ma ha vissuto anche momenti bassissimi. Elia è stato un depresso, Elia è stato pieno di paura, Elia è scappato da una donna, tanti di noi forse, ma Elia è scappato da una donna dopo aver visto il fuoco scendere dal cielo. Ha avuto tanta, tanta paura, ha desiderato di morire sotto la ginestra. Ma con lui il Signore ha compiuto cose meravigliose. E perché Elia ci dice sul quando? Andando avanti, in 1 Re 17, 2:8 leggiamo: la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Dopo aver dato quella bella notizia ad Acab, Dio dice ad Elia: vai al torrente, lì tu potrai bere e lì ci sarà il mio servizio personalizzato di corvi che arriverà e ti porterà carne, pane. Bellissimo. Elia ci insegna che è buono e giusto ricevere la benedizione del Signore in un tempo di impossibile, ma un bel impossibile, un bello impossibile. Elia ci insegna a ricevere l'impossibile quando è bello, quando è sereno, quando dobbiamo solo stare fermi, andare al torrente, e aspettare che arrivino i corvi e ci diano da mangiare e bere dal torrente, in un impossibile che piacerebbe a tutti. Però c'è una frase che ho ascoltato in una predica, diceva: prega come se tutto dipendesse da Dio, ma vivi come se tutto dipendesse da te. C'è anche il tempo non solo di ricevere, ma anche il tempo di fargli dei passi di fede. Ed Elia è chiamato a fare questo passo, perché dopo un po' il torrente si prosciuga. E allora Dio gli dice: vai a Sarepta dei Sidoni, lì ci sarà una vedova, ti sfamerà lei. E questo passo non è importante solo perché doveva sfamarlo una vedova, una donna presumibilmente povera, ma perché Elia doveva andare a Sarepta dei Sidoni. Sarepta dei Sidoni era il centro nevralgico dell'azione dei profeti di Baal. Erano tutti lì, era il loro fulcro. Non solo, Sarepta dei Sidoni era il luogo di provenienza di Jezebel, la moglie del re Acab, quella donna che gli metteva tanta paura. Però Elia, leggiamo successivamente, che va senza dir nulla. Elia va a Sarepta dei Sidoni. E allora magari quando Dio l'ha mandato al torrente Cherit era sicuramente Dio. Beh, era tutto bello lì, viene da Dio, grande benedizione. E a Sarepta dei Sidoni è lo stesso Dio? Quante domande ci saremmo fatti. Mamma mia, Signore, ma sei sicuro? Proprio là, là dove sono tutti i profeti di Baal, da dove viene quella donna malvagia, sei proprio tu? Ma Dio ancora di più è il Dio dell'impossibile, quando l'impossibile è un po' brutto, quando è il brutto impossibile. Dio ha usato quella situazione per dimostrare ad Elia: io non me ne faccio niente di Baal e dei suoi profeti. Ed è stato fondamentale per tutto quello che poi Elia ha vissuto dopo, perché poi lui li ha affrontati, quei profeti, erano a centinaia sul Monte Carmelo, ma è stato fondamentale poter essere sicuro: io sono andato lì, nella loro nazione, non mi è successo nulla, il Signore mi ha protetto. Questa è la funzione di quando noi viviamo degli impossibili un po' bruttini. Gesù è sempre con noi, soprattutto lì è il Dio dell'impossibile. Ed Elia come lo lasciamo? Un ultimo versetto. Dopo quasi 3 anni Elia torna dal re Acab e sulla strada incontra un suo sovrintendente che gli dice, 1 Re 18:10, com'è vero che il Signore, il tuo Dio, vive, non c'è nazione nel regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti. E quando gli si diceva, egli non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. Acab aveva cercato Elia per più di tre anni. E la Bibbia non lo dice, però è facile pensarlo. Qual è l'ultimo posto sulla faccia della terra dove Acab avrebbe mai cercato Elia? Se non proprio Sarepta dei Sidoni, il centro nevralgico dei profeti di Baal. Allora magari per Elia non aveva nessun senso, anzi, era il luogo peggiore dove andare. Ma Dio guardava più lontano. Dio sapeva che Acab lo stesse cercando, sapeva che stava andando per mari e monti per cercare di ucciderlo, e l'aveva nascosto lì, nel posto dove Acab mai avrebbe pensato di trovarlo. Nel brutto impossibile Dio ci protegge. Dio è con noi e Dio sta guardando più lontano di noi. Amen. Amen. Prossima dimensione, il dove. Pensando al dove vivere l'impossibile, ho pensato subito a un ragazzo preso e deportato fuori dal suo paese in un luogo terribile, Daniele. Daniele, quando è stato portato a Babilonia, era solo un ragazzo, era giovane, lui e i suoi amici. Non aveva nessuna qualità se non quella di avere un'intimità con Dio quotidiana, forte. E chi meglio di Daniele può spiegarci dove vivere l'impossibile? A Babilonia. Oggi Babilonia è tutto intorno a noi. E cerca di agire nello stesso modo con cui ha agito con gli amici di Daniele. Cerca di darci nuove vesti, quindi di farci girare con un'apparenza normale, come tutti. Più sei normale, meglio è. E poi cerca di darci un'identità diversa, di concentrarci sull'identità, ad esempio, Marco e l'impiegato, Giovanni e il muratore. Così ci definiamo. Piacere, Marco, tu che lavoro fai? È la prima domanda che facciamo agli altri. Cerca di distanziarci dall'identità di figlio di Dio, che è la prima. Cerca di dirci, no, tu sei quello un po' triste, tu sei quella persona di quella situazione là, che sta vivendo quel problema con suo figlio, che sta soffrendo perché il matrimonio è andato male. È un'identità che Babilonia, questo mondo di oggi, cerca di darci giorno dopo giorno. E poi cerca di nutrirci con il suo cibo. Cerca di darci sempre, sempre i soliti ideali, i soliti costumi, le solite parole, i soliti obiettivi. Però qui Daniele e i suoi amici hanno detto no. Magari mi posso pure vestire un po' come voi. Va bene che mi riconoscete per strada come Daniele quello lì, con un nome diverso. Ma il cibo di Babilonia io non lo mangio. E lo dice in Daniele 1:12-15. Non lo leggeremo tutto, ma possiamo vedere come chiede al sovrintendente di Nabucodonosor, del re di Babilonia, di mangiare cibi diversi. E lui glielo dice. E lui gli dice di sì. E al versetto 15 leggiamo: alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Prova per un tempo a non nutrirti di quello che il mondo ti dà. Sarai un po' diverso dagli altri, magari ti vedranno un po' diverso a Babilonia, ma la tua vita sarà molto, molto più prosperosa rispetto a quella degli altri, perché avrà un senso diverso. Fai la prova di 10 giorni, 10 giorni senza cibo esterno, solo parola di Dio. Al 10° giorno la tua vita sarà una vita più prosperosa. Però non rifiutano solo questo, rifiutano anche un'altra cosa: l'adorare e il servire, inchinarsi a qualcosa di diverso rispetto a Dio lì a Babilonia. Lo fanno per 2 volte. Una volta Daniele finisce nella fossa dei leoni e una volta i suoi amici finiscono nella fornace ardente. Finisce sempre un po' così. E che vuol dire oggi questo? Che vivere il Dio dell'impossibile, la sua direzione qui a Babilonia, vuol dire viverla nelle situazioni che fanno un po' paura, in quelle scelte che ci portano in delle strettoie, in dei punti un po' difficili da vivere qui. Ma in entrambe le volte Daniele nella fossa dei leoni non è stato mangiato dai leoni e i suoi amici nella fornace non sono stati toccati dal fuoco, neanche gli abiti puzzavano di cenere. L'unica cosa che è stata disciolta dalle fiamme sono state le funi di Babilonia. Nulla di Daniele e i suoi amici nel loro corpo era di Babilonia, nulla. Non avevano mangiato nulla di Babilonia. I leoni mangiavano i cibi di Babilonia, le fiamme bruciavano qualcosa di Babilonia. Non sono stati bruciati, perché nulla nel loro corpo apparteneva a Babilonia. Solo le funi di Babilonia sono state bruciate. Se non mangi i cibi di Babilonia, se non apri le porte al nemico, il nemico non ha potere sulla tua vita. La tua vita appartiene a Cristo. Non ti nutrire di Babilonia, non dire sì ai suoi cibi, ai suoi ideali, alle sue aspettative, e nelle fiamme, nella fossa dei leoni, non sarai bruciato, perché non avrà potere sulla tua vita. E in più, nella fornace non erano soli. Un quarto uomo apparve, simile a un figlio d'uomo. Gesù era lì con loro. A Babilonia, quando scegli la parte più stretta, la parte peggiore, avrai la sicurezza che Dio sarà con te. Il tuo Dio dell'impossibile sarà con te nelle fiamme e tu non sarai bruciato. Amen. Amen. Prossima dimensione, il perché. Quindi il quando, nel bello impossibile e nel brutto impossibile. Dove? Qui a Babilonia, qui dove è più difficile, compiendo scelte di appartenenza. Il perché. Ho pensato al perché e subito mi è venuta in mente una frase, un'affermazione, una delle mie preferite nella Bibbia, che dice: è solo un ragazzo. Davide. Davide, anche lui, ha vissuto un caso dopo l'altro in questa storia, un po' come gli altri. Per caso lui si trova al fronte, dove erano i suoi fratelli a combattere, e per caso sente un'affermazione da parte di un gigante, Golia, che da giorni e giorni stava tormentando e dominando anche psicologicamente il popolo di Israele. Allora succede che Davide sente le sue affermazioni e in 1 Samuele 17:26 è scritto: Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? Chi è questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Chi insulta le schiere del Dio vivente? Chi sta insultando da giorni, settimane, mesi la tua vita? Chi sta insultando la potenza di Dio nella tua vita? Chi sta insultando la tua fede nella tua vita? A chi stai permettendo di dominare? A quale paura, a quale pensiero, a quale situazione gli stai permettendo di insultare le schiere del Dio vivente nella tua vita? Dovremmo chiedere quell'impossibile, quel più alto, con lo stesso vigore di questa affermazione di Davide. Davide non poteva sentire Golia insultare così Dio. Era un perché di appartenenza, di stirpe, era un perché di appartenenza a un popolo, alle schiere del Dio vivente. Questo dovrebbe muoverci. E Davide non aveva addosso l'armatura di Saul. Era troppo pesante per lui. La sua forza erano le vittorie contro il leone, contro l'orso che aveva avuto quando era un pastore. Quella era la sua forza. Per chi crede da un po' di tempo, ancora di più questo ha senso. Le nostre vittorie nel passato contro l'orso e contro il leone dovrebbero essere la base da cui partire per dire: quel gigante, il gigante di oggi, il gigante che il diavolo ci mette davanti oggi, non ha potere. Perché in virtù del Signore che mi ha liberato dal leone e dall'orso, anche questo gigante cadrà. E questo gigante si andrà ad annoverare alla testa del leone e alla testa dell'orso. Il perché di Davide era un perché con un fuoco dentro, con un impeto, con una reazione quasi spontanea. Ma chi è? Chi è che sta insultando il mio Dio? E magari con la lode che abbiamo avuto, anche con quello che ci stiamo dicendo, oggi di sguincio quella pietra la riusciamo a lanciare al gigante. Oggi la possiamo fare sta scelta, va bene, da oggi mi impegno, la tiro e il gigante può andare a terra un po' stordito. Però poi c'è il 23 febbraio, c'è martedì 24 febbraio. Davide, dopo che gli ha lanciato la pietra, è andato lì, ha preso la spada e gli ha tagliato la testa. Ha tagliato la testa a quel gigante. Tagliali la testa. Tagliali la testa. Che sia una vittoria decisiva. Che sia un giorno da ricordare questo. Ma la mia rabbia è difficile da battere. Quella dipendenza è difficile da sconfiggere. Torna e torna. Tagliali la testa. Il passato torna, la mia tristezza torna, quei pensieri tornano, tagliali la testa. E se è difficile, ricorda da dove siamo partiti. Quel Dio che la morte l'ha già sconfitta. Il gigante peggiore, il boss finale, l'ha già affrontato. È già morto. In virtù di quella potenza puoi tagliargli la testa. E che sia l'inizio di una nuova testimonianza, che non possano essere più solo l'orso e il leone, ma che tu possa dire: l'orso, il Signore mi ha liberato dal leone, il Signore mi ha liberato da quel gigante e mi libererà anche dalla prossima, di vittoria in vittoria, con un fuoco dentro. Chi osa insultare il mio Dio? Nessuno ha questo potere. Il come, prendiamo uno che è facile prendere, in cui ci rivediamo tanto. Uno che appena gli è stato detto: vai, vai a fare questa missione, compi l'impossibile, si è voltato dall'altra parte, nella direzione completamente opposta. Siamo noi, io, Giona. Il come è Giona. E Giona è perfetto, perché Dio gli dice: vai a Ninive, vai in quel posto bruttissimo, dove, e parla di me, perché i niniviti devono essere salvati. Giona assolutamente no. E un po' quando Dio ci parla un po' con la sua voce dentro e ci dice: puoi farcela, quella situazione puoi dimenticarla. Noi no. Noi quel pensiero deve rimanere in silenzio. Cerchiamo di non pensarci, ci svalutiamo un po' inconsciamente svalutiamo anche tutta la potenza che Dio può avere nella nostra vita, restiamo silenti, perché l'impossibile è un territorio scocciante, è proprio scocciante. Psicologicamente il cambiamento lo vogliamo evitare, meglio rimanere nella mia melma, il mio peccato è proprio comodo, respiro, sto bene, è il mio territorio quello là, l'impossibile devo cambiare, devo muovermi, devo fare il passo, meglio rimanere qua dove siamo. E agendo così, in questo modo, facciamo la stessa fine di Giona. Che succede a Giona? Si addormenta. Nella nave, per andare dall'altra parte della direzione dell'impossibile, Giona si addormenta. E noi rischiamo questo, che se non andiamo, se non facciamo quel passo difficile, un po' pericoloso, ma non sarebbe impossibile se non fosse pericoloso. Cioè ci deve essere quella punta di paura, quella punta del non riesco, perché l'impossibile lo compie Dio, è Lui che lo deve fare, non noi. Se non c'è quella difficoltà, è possibile. E che ci siamo a fare? No? Ci deve essere una punta di paura, accettala. Accettala, accoglila e non ti addormentare. Non ti addormentare, perché il nemico ti vuole proprio così, bello, docile, addormentato, silenzioso, perfettamente incastrato in questo mondo, in tutto quello che richiede, incastrato. Un uomo normale, un babilonese a Babilonia, perfetto. Vesti, nome, cibo, perfetto lì. Rischia per vivere le cose di Dio. Fai quel passo impossibile. E meno male che Dio ci ama e fa arrivare le tempeste. Arriva una tempesta incredibile a Giona. E quante volte diciamo: mamma mia, Signore, grazie per la normalità. Grazie, Signore, perché va tutto bene nella mia vita e nulla va male. Grazie, Signore, per la normalità. E quando arriva una tempesta ci arrabbiamo con Dio. Siamo irrequieti pure noi. Ma perché proprio a me, proprio oggi, proprio ora? Stava andando tutto così bene. Ma Dio lo sta amando a Giona, gli sta dando l'opportunità di andare verso la sua direzione. Ogni tempesta vissuta con Dio è un'opportunità di vicinanza, di stringersi a Lui, di non dormire nei nostri comodi. E Giona si sveglia, anzi lo svegliano e arriva sulla nave e vede questa tempesta. E quindi una volta che ci siamo svegliati, una volta che riconosciamo la tempesta come opportunità, il prossimo passo lo leggiamo. Giona 1, 10-12. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. E il passo successivo è proprio abbandonarsi. Abbandonarsi. Mollare i remi e abbandonarsi. Fidarsi. Smetterla di fare con le proprie forze, perché con le proprie forze è solo il possibile che raggiungiamo. E abbandonarsi e dire: va bene, Signore, io capisco che forse mi sono addormentato per troppo tempo e mi getto nelle tue braccia, mi abbandono, mollo gli ormeggi e che tempesta sia, mi abbandono, non faccio più con le mie forze, Ricordiamo la frase, no, prega come se tutto dipendesse da Dio, agisci come se tutto dipendesse da te. Beh, la nostra parte è darci una svegliata e dire, Signore, ok, questa tempesta è un'opportunità vera per me, mi abbandono. Ora inizia la parte del pregare, perché tutto dipende da Dio, perché l'impossibile si compie solo con Dio. E Giona verrà inghiottito da un pesce e lì dentro dirà, in Giona 2, 8, 10, quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. La mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. Quando la vita veniva meno in me, quando ormai sembrava impossibile, nell'impossibile mi sono ricordato del Signore e l'impossibile è successo. Elia era un uomo pieno di paure, era desideroso anche di morire quasi, lo dice. Daniele era solo un ragazzo a Babilonia. Davide era, ne ha fatte tante, ha mentito, Davide si è finto pazzo perché non si fidava di Dio, Davide ha ucciso, Davide ne ha fatte tante. E Giona è l'esempio perfetto di noi ribelli che all'impossibile, che nell'impossibile proprio non ci crediamo, che andiamo proprio dall'altra parte. Eppure questi uomini imperfetti, così imperfetti, sono stati capaci di insegnarci un po' di fede, di insegnarci come compiere in Dio cose meravigliose e vedere con Lui l'impossibile. Ci hanno insegnato il quando viverlo, ci hanno insegnato il dove viverlo, in che cosa deve nascere in noi per viverlo e in come viverlo. E noi chi siamo? C'era un'altra dimensione, il chi vive l'impossibile. L'impossibile lo viviamo noi, la Chiesa. Noi siamo la dimensione mancante perché oggi Elia non può andare al nostro lavoro a parlare di Dio. Oggi Giona non può andare per noi in una parte dove è un po' difficile parlare di Dio. Abramo, Mosè, oggi non ci sono. Oggi è il nostro tempo. Oggi siamo noi. Noi siamo ecclesia, chiamati fuori, appartati. Questo voleva dire il termine chiesa. Chiamati fuori nel quando vivere le cose, nel dove vivere le cose, nel perché e nel come vivere questa vita. Chiamati fuori, chiamati ad appartarci, chiamati ad essere un po' cristiani. I primi cristiani sono stati chiamati così, non perché c'era già una religione, un credo, perché li vedevano e dicevano, ma questi qui fanno le stesse cose, parlano come a quello lì che abbiamo ucciso, Cristo cristiani. I cristiani assomigliano a Cristo, per definizione, se no non sono cristiani. E c'è un versetto che a volte è un po' frainteso, Matteo 18, 20, dice, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. E qui non si sta parlando però di persone qualsiasi, si sta parlando dei cristiani, dei discepoli, perché nel verso prima dice, in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà concessa, quell'impossibile sarà concessa, ma due di voi, due discepoli, e questo fa tutta la differenza del mondo. Ricordiamo la A di appartenere delle diverse Ade del pastore durante le prediche su Ruth. C'è una differenza tra l'appartenere e anche quell'altro verso che ha detto in Corinzi, quando diedero in man di Satana un uomo. Beh, queste sono le due categorie. Chi e immandi Satana sotto il suo dominio, non appartiene alla Chiesa. E poi c'è invece chi appartiene alla soluzione da parte di Dio, perché la soluzione che Dio ha trovato per questo tempo non è il singolo credente, non è chi viene, si siede e se ne va, è la Chiesa. E chi appartiene e chi c'è ogni giorno per costruire il regno di Dio. E chi viene qui lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, chi ama costruire il regno di Dio, chi ama esserci, chi ama appartenere, chi vive per questo, quelli sono i discepoli che vedranno l'impossibile. E in Atti 6:2 è scritto, non lo leggeremo, che, cioè fidatevi, poi se mai lo potete leggere, è scritto che i dodici convocarono il numero esatto di coloro che appartenevano alla Chiesa di Gerusalemme, e la Chiesa di Gerusalemme era numerosa, ma loro convocarono il numero esatto, si conoscevano tutti, condividevano tutto, tutti appartenevano, tutti erano lì, erano l'uno per l'altro, mangiavano insieme, amavano questo, amavano la Chiesa, vivevano per questo. Vivevano per costruire mattone dopo mattone, per edificare la Chiesa, per portare il Vangelo. Era questa la loro vita. Non avevano altro. Sì, qualcuno aveva le proprie professioni, ma era poca cosa rispetto al perché che bruciava dentro di loro. Loro appartenevano. Erano ogni giorno lì, giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà. Possiamo alzarci in piedi. Abbiamo letto di questi uomini straordinari, e ogni volta che ci pensiamo, per noi sono uomini straordinari, esempi incredibili, ma abbiamo constatato come erano deboli in quanto uomini, proprio come noi. Sentiamoci inclusi in questo, storie. Che non c'è bisogno di niente più che una vita arresa, una vita abbandonata. Abbiamo capito che la ricetta per vedere l'impossibile è abbandonarsi, essere dei cristiani, ma dei cristiani sinceri nel dire: Signore, io questo è impossibile, questo che mi metti davanti è proprio difficile per me, veramente impossibile, ma è affar tuo, non affar mio. E in Ebrei è scritto, vi ricordate quel verso che dice: circondati da una così grande schiera di testimoni, corriamo la gara che c'è posta davanti. Questi testimoni sono proprio Elia, Abramo, Mosè, che sono lì e non hanno visto, sono morti nella fede, perché c'eravamo noi, c'era il nostro tempo da vivere, il nostro tempo dove prendere in mano questa fede e metterla in gioco e dire: io ci sono. Io faccio parte di quelli che appartengono. Se facciamo una conta, io ci sono. Mi riconosci? Io ci sono. Gesù, morto in croce per la gioia che gli era posta davanti, sempre noi. È il nostro tempo per vivere l'impossibile. Attraverso le nostre vite, attraverso il mio e il tuo impossibile. Io vi chiedo di chiudere gli occhi in questo momento. È scritto che noi siamo gli ambasciatori di Dio. E sapete, lì dove è l'ambasciata è territorio di quella nazione. Ovunque noi andiamo, portiamo il regno di Dio, perché siamo suoi ambasciatori. È il regno di Dio dove siamo noi, è terra santa, è terra dove possono accadere miracoli, guarigioni, perché siamo il popolo di Dio. Prendiamola per noi, prendiamo per noi questo dono. È terra santa, ovunque noi siamo. Possiamo vivere l'impossibile in questo tempo, quando è un impossibile bello e quando è un impossibile brutto. Possiamo vivere l'impossibile qui, a Babilonia, nelle fornaci, nelle fossi. Possiamo vivere l'impossibile con un perché che ci brucia dentro, abbandonati nelle braccia del Signore. Perché non alziamo le nostre mani se vogliamo vivere questo? Se vogliamo prendere questa scelta oggi, Signore, io questo impossibile lo voglio vivere. Nella mia situazione, qui dove sono, lo voglio vivere. Se vuoi confessare, io sono cristiano. Io sono cristiano. Alza le tue mani ben alte. Io sono cristiano. Io appartengo a quel popolo. Io appartengo alla Chiesa. Io voglio costruire il regno di Dio. E Signore, grazie. Grazie per tutte queste mani che tu vedi ben alte. Grazie Signore perché in te noi abbiamo la certezza che come abbiamo sconfitto il leone, come abbiamo sconfitto l'orso, possiamo sconfiggere questo impossibile che è davanti a noi. Grazie Signore perché tu sei con noi nella fornace. Tu sei con noi quando ci abbandoniamo a te. E nulla di noi verrà toccato o bruciato, perché non vogliamo nulla, nulla che non sia tuo. Nulla su di noi ha dominio, nulla su di noi ha potenza, perché noi siamo tuoi, noi siamo cristiani. Noi vogliamo essere cristiani e vogliamo tagliare la testa a tutto ciò che ci impedisce di vivere l'impossibile con te. Perché non iniziamo a parlare, a proclamare queste verità davanti a Dio e poi a lodarlo insieme? Perché non iniziamo a fare nostre queste verità? Ad aprire la nostra bocca e dire: Signore, io sono tuo, mostrami l'impossibile da vivere. Io lo voglio vivere con te, io lo voglio vivere oggi con te. Io sbagliato, io peccatore, io mi arrendo a te, mi do completamente alla tua volontà. Amen. Lodiamolo insieme, viviamo.